Ebbene sì, oggi riparte la fabbrica del programma in questo luogo che è il cuore di Bologna. Da qui parte la nuova via della conoscenza, uno dei progetti più importanti che abbiamo deciso di dedicare a Bologna e al suo futuro, cioè l'idea che Bologna sia grande per quanto riguarda le ricerche scientifiche, l'università, l'innovazione. Siamo di fianco alla stazione alta velocità, questo è Dambo, un distretto in un'area dismessa che stiamo rigenerando. Stiamo parlando ora di 40.000 metri quadrati, ma in un futuro potrebbero essere 200.000, tutti cementificati, dove far sorgere una nuova idea di città dedicata alla cultura, alla scienza, all'accoglienza dei giovani studenti e dei ricercatori. Da qui parte la fabbrica del programma dopo un mare di partecipazione con 26.000 persone che sono venute alle primarie. Come funzionerà la fabbrica del programma? Oggi presenti un po' appunto il programma. Oggi presenterò il percorso insieme a Cristina Ceretti, che è la coordinatrice della fabbrica. Insieme a lei e tantissime altre persone abbiamo avviato 12 tavoli sui temi ai quali partecipano sia i partiti e i movimenti che mi hanno sostenuto alle primarie, sia Isabella Conti e tutti gli altri movimenti che hanno sostenuto la sua candidatura. Inviteremo tutte le associazioni della città, quelle che hanno già scritto un manifesto di idee, sia le associazioni di categorie, i sindacati. Io da questa settimana mi attaccherò al telefono, inviterò tutti a venire alla fabbrica, perché sarà un grande momento per disegnare il futuro della città. Lavoreremo per scrivere insieme il progetto di città e poi farò la sintesi come candidato. Intorno al 15-20 di settembre raccoglieremo tutti questi materiali e presenteremo, una volta che sarà ufficializzata la data delle elezioni, il nostro programma. Prima ti chiedevamo le proposte della Conti e tu comunque hai ribadito anche adesso, alla fine insomma dai tavoli devono emergere idee, poi a decidere sarai tu con gli alleati. Beh, sarà il candidato sindaco insieme alle liste che lo sosterranno, quindi vedremo quali saranno le liste definitive, insomma, che si vorranno proporre a sostegno. Questo si saprà a fine agosto, primi di settembre. Bisogna attendere la data ufficiale delle elezioni per avere un riferimento preciso. Con Coalizione Civica stiamo facendo un buon lavoro insieme anche a tutti gli altri alleati. E con Isabella ci stiamo sentendo, mi aveva anticipato queste sue idee e io l'ho invitata a essere presente alla fabbrica. Già oggi ci sono alcuni suoi rappresentanti e lavoreremo per costruire un'idea condivisa da proporre insieme agli elettori, direi entro i primi di settembre. Che pensa dei tavoli che Coalizione Civica ha annunciato di voler autoconvocare? Perché si dice sono temi che non erano previsti nell'agenda, diciamo, in partenza, allora loro contano di inserirli in questo modo. Noi abbiamo, vedrete sul sito del programma, messo un form per chi vuole organizzare degli appuntamenti della fabbrica del programma, alimentando la discussione con delle idee. Quindi non invito solo Coalizione Civica a farlo, invito tutti i cittadini a scaricare dal sito della fabbrica del programma questo form, perché la fabbrica si ritroverà qui, ma si ritroverà anche in altre zone di Bologna. Cioè invito i cittadini, i movimenti e le associazioni ad esserci con le loro idee. Come ho detto, è il momento della partecipazione e dell'avanzare proposte, che non devono essere necessariamente in questa fase condivise da tutti. L'importante è che le idee vengano messe in campo e poi che a settembre, quando presenteremo il programma, si faccia una sintesi e spetterà a me farla. Più idee noi mettiamo in campo adesso, meglio è. Ti volevo chiedere della questione che si è aperta la settimana scorsa sulla messa a bando di alcuni mercati contadini in città, che è una questione amministrativa ma comunque attiene anche al modello di città che si vuole. Cosa ne pensi tu? È una questione di cui non mi sto occupando perché sono impegnato su altro, quindi sicuramente approfondirò e ne parleremo.